Ad alta voce. Valentina Carnelutti legge L'ora di tutti di Maria Corti. 16ª puntata. Scivolavo silenziosa fra le sedie della mia casa. Cucivo, stiravo i panni, facendo attenzione che le pieghe cadessero tutte precise, e se non erano proprio precise, disfacevo e ricominciavo l'operazione. Anche se l'orlo del lenzuolo non capitava proprio diritto, stavo lì per dei quarti d'ora a ritoccarlo. Sbattevo le frange dei panni, con le dita raddrizzavo tutti i fili, mazzetto per mazzetto, come se ne andasse della vita. Feci grandi pulizie alla casa, passando la pezza su tutti i muri. Arrivata alle finestrelle, lavai una per una col panno bagnato le foglie dei gerani piene di polvere. Mi accanivo ad aprire le foglie accartocciate e a lavarle per benino, come fossero i calici della messa. Tutto facevo con la massima perfezione e con la massima calma, tanto c'era un vuoto completo, quasi piacevole, nella mia anima. E le giornate passavano. Quando veniva notte e non potevo più lavorare, mi coricavo subito, ma anche allora non nasceva nessun pensiero preciso. Tante immagini si facevano e si disfacevano da sole, come dentro le nuvole bianche che, mosse dal vento di scirocco, disegnano facce, cavalli, cuscini, fiori che poi muoiono nel cielo. Ragioni che continuassi a sedermi presso il balcone nella sala di Don Felice non ce n'erano più, ma lui mi mandava a chiamare ogni tanto e io, come una sonnambula, andavo. «Tu non ci devi andare», diceva mia sorella. «Qua c'è un nuovo pericolo». «Pericolo?» mi venne da ridere. «Pericolo come?» «E perché vuol vederti?» insisteva mia sorella. «Perché ti manda vesti e bracciali? Ma tu sbagli sempre, figlia!» «Si sarà innamorato di me», risposi annoiata. «E tu ci vai?» «Sì, ci vado». «Questo è druso, è brutto!» Alzai le spalle. «Senti, sorella mia», lei disse. «Tu non puoi proprio vivere neanche un po' di tempo senza peccato. Sapete parlare tutti solo di peccato. Che sapete d'altro?» Io volevo distruggermi, sì signore, e questo lei non lo capiva. Mi ricordai di quando ero piccola. Si giocava nell'acqua del porto a chi colpiva più lontano il sughero con una pietra. Se uscivo sconfitta dalla gara, mi prendeva verso di me un'ira così feroce che mi buttavo in acqua, mandavo sotto la testa e restavo così fin quando mi sentivo morire. Era solo la nausea dell'acqua ingollata che mi riportava a riva. Una volta se ne accorse Colangelo, il marito dell'Assunta, che allora era un ragazzetto e giocava con noi. «Ma guarda come sei stupida», disse. «Lo sai che così si muore?» «Lo so. E vuoi morire? E a te che te ne importa? Ma tu sei una femmina. Non vedi che tremi?» «Io non tremo per niente», gridai, e mi sarei ributtata in acqua se lui non mi avesse tenuta per un braccio. Ci demmo tanti pugni quella volta che fu Mastro Natale a separarci. «Ma dove si ficca in una ragazzina?» disse, «tutta questa forza». Mi domando come sarebbero andate le cose se invece che a me fossero successe a un'altra persona. Sarebbe diventata l'amica del vecchio Don Felice? Io lo diventai. Seppi tutto per filo e per segno della sua vita e della vita dei patriarchi. Spesso, mentre lui parlava, io pensavo ad altro, ma qualcosa finiva con restarmi nella mente di quelle lunghe storie piene di bizzarrie che non si capiva mai dove andassero a finire. Gente curiosa, quei patriarchi, che mescolavano sempre i loro peccati coi disegni di Dio, proprio come faceva Don Felice. Lui mi istruiva, mi insegnava le belle maniere, mi vestiva con sete e broccati meravigliosi. Aveva una grande cosa Don Felice, era un uomo buono, che faceva vivere bene tutti quelli che gli stavano attorno, e questo fatto l'ho visto di rado fra i signori che ho conosciuto sulla terra. Però che io stessi con lui per non pensare ai cocci della mia vita e per aver sete e broccati che tanto mi piacevano, avrebbe dovuto capirlo, era chiaro come il sole. Avrebbe potuto almeno riconoscere la cosa e continuare a stringermi fra le braccia, e invece no. Questa cosa chiara lui non la vedeva. Mi spiegava che io ero un angelo e che quando mi avvicinavo a lui sentiva nell'anima proprio il soffio di due alette che lo portavano in alto. A questo punto quasi sempre finiva col mettersi a parlare latino. Aveva la mania del latino, a momenti lo imparavo anch'io. Per parte mia posso dire che non ero più quella che ero stata tutta la mia vita, o almeno non si vedeva. Parevo la maretta quando le acque dondolano in su e in giù. Gli ufficiali spagnoli e napoletani venivano al palazzo, mi vedevano fare vento al braciere e si innamoravano di me, si disperavano anche. Cominciai a capire che gli uomini, senza saperlo, amano di non essere amati, e quanto più sei lontana, tanto più si incapricciano di essere vicini. Mi meravigliai che un ragionamento così semplice non mi fosse venuto in mente prima. Allora i miei pensieri riprendevano a girare attorno a Manuel, all'amore straordinario che avremmo potuto vivere, e pensavo un sacco di cose che ormai erano assolutamente inutili. Decidevo vuoi di mettermi a cucire, vuoi di attaccar pizzi a una gonnella, e invece d'un tratto mi alzavo in piedi e me ne andavo fra le sabbie della roca matura. La unica abitudine che mi fosse rimasta della vita di prima era quella: di stendermi sulle dune di sabbia a pochi metri dalle onde e guardar camminare la sorte fra i cespugli di finocchio selvatico. Né l'avrei persa fino alla morte, io credo, se qualcosa non fosse arrivato a Otranto a cambiare le abitudini di tutti. Una mattina di tramontana di mare grosso, la cosa comparve all'orizzonte. Erano i turchi. Don Felice voleva assolutamente che montassi subito su una carrozza e partissi con lui per Lecce, magari per Brindisi. «Io di qui non mi muovo», dissi. «Non sprecate il vostro fiato, Don Felice. Farò tutto quello che faranno le altre otrantine e la loro sorte sarà la mia». «Allora non partirò neanch'io», rispose deciso. «Voi dovete partire, questa non è la vostra terra, è diverso per voi». «Eh? Cosa? Tu non sai ancora chi sono, piccina, ma lo vedrai, presto lo vedrai. Ti sei preparata un magnifico spettacolo, in fe di Dio». Lui fu l'unico spagnolo che non fuggisse da Otranto, e quanto allo spettacolo, non mancò alla promessa. Nel giorno dell'attacco alla porticella, noi donne con i piccini andammo a vivere nella cattedrale per ordine dell'arcivescovo. Così le navate assomigliavano alle strade di un accampamento e nelle cappelle stavano le madri con i piccini. L'arcivescovo venne a fare un giro cappella per cappella. Disse che le cose non vanno sempre a un modo né secondo la nostra povera mente, ma i casi che occorrono sono voluti tutti da Dio, e perciò chi ne cerca ad ogni costo la ragione cede a un'insidia del demonio. I piccini, accoccolati in terra ai piedi degli altari, guardavano l'arcivescovo con gli occhi spalancati e pieni di meraviglia. Poi giravano su se stessi e scoppiavano a piangere. Pure i lattanti, se la madre offriva la mammella, scuotevano la testa e con la manina picchiavano il capezzolo. Erano nervosi i piccini. Per 13 giorni le porte della chiesa furono spalancate, sicché da esse e dai finestroni entrava la grande luce del sole di agosto. Si poggiava sulle pietruzze rosse, verdi, gialle del pavimento, illuminava gli alberi dell'Eden, Adamo ed Eva, lo scorpione, la bilancia, e si fermava al tocco fra la torre di Babele e l'arca di Noè. Il secondo giorno dalla porta grande cominciò a entrare un morto, con la testa che dondolava a melanzana. Fu portato davanti alla Madonna, la quale stava quieta sotto la sua corona d'oro, e messo infine sul tavolo della sacrestia coi piedi verso la porta. La moglie del morto si strappò ciocche di capelli e le gettò sulle lunghe dita cadaveriche mentre le vecchie pregavano in voce lamentosa. Ogni giorno che passava arrivavano nuovi morti, sempre di più, e tutti finivano sul tavolo della sacrestia coi piedi verso la porta. Erano insanguinati e sporchi, sicché a vederli le donne gridavano, qualcuna veniva meno e cadeva a terra. Allora padre Epifani raccolse quelle giovani e senza figli, le guardò tutte in faccia e alla fine fissò me. «Ce la fai a pulirli tu, svelta e per bene?» «Credo di sì», dissi. E da quel momento presi il compito di lavare la faccia dei morti e aggiustarli per la sepoltura. Arrivavano e partivano quieti, come cose di un altro mondo. Dopo che il canonico De Pasca alzate le braccia dentro le grandi maniche aveva dato la benedizione, padre Epifani con un laico li andava a seppellire avvolti in un manto. «Questi, Drusa», diceva padre Epifani, «ora sono felici». A me davano i nervi quelle parole. Per me la felicità era sedere ai piedi di un albero in riva al mare. Una sera mi si avvicinò Assunta sulla porta della sacrestia. Disse che aveva voglia di morire. «Sta buona», risposi. «Tu?» disse. «Non hai paura?» «Beh, qualche volta, come no». «Di che cosa hai paura?» «Beh, dipende», scoppiò a singhiozzare. «Tu non hai figli, non puoi capire. Che fine farà Alfio mio? Lo scozzeranno?» «Ma non hai sentito?» risposi. «Padre Epifani ha detto chiaro che i piccini maschi se li portano ai paesi loro, li vestono con panni di turchi, li mandano 5 volte al giorno alla meschita e poi li passano soldati. Li pagano, alla fine uno fa soldi e si compra la libertà». «Dici che è vero?» Pensò un poco, poi le venne ancora da piangere. «Alfio mio, soldato turco! E che vuol dire? Dio lo sa come sono andate le cose. E poi queste sono tutte nuvole, arriverà Don Alfonso a liberarci». «Tu credi che arriverà?» «Ma certo, è questione di giorni, magari di ore». Veramente io non ci credevo più alla venuta di Don Alfonso. Nessuno ci credeva, ma ognuno voleva farlo credere agli altri. E così si continuava a parlarne in quei giorni. «Tu sei buona», disse a un tratto Assunta. «Ti avevo giudicata male prima». Anche mia sorella era venuta a vivere nella cattedrale. Lei e il marito avevano lasciato la masseria il giorno stesso della comparsa dei turchi. Una volta sedevo con lei e l'Assunta nella cappella dei Santi Medici a tagliare e cucire fasce per le ferite dei nostri uomini, quando un forestiero napoletano, che alla veste pareva un servo del governatore, s'accostò al nostro gruppo. «Chi di voi è Idrusa?» «Io», dissi. «Vieni, ti vuole il capitano Zurlo». «Vuole me?» «Sì, signore». «Ma che hai fatto?» chiese spaventata mia sorella. «Io? Niente, che devo aver fatto? Ho pulito i morti». Mia sorella disse al forestiero: «Perché? Che è successo?» «Io ho l'ordine di portarla al palazzo, non so altro». Appoggiai su una panca le bende. «Tu non fai mai niente», disse mia sorella, «e ti capitano sempre cose diverse dalle altre». «Va un po'», risposi seccata. Uscimmo dalla porta di Levante e camminammo in silenzio. Sulle scale del palazzo incontrai la faccia spaventata di Teodoro, il servo di Don Felice. «Il padrone muore», disse. «Che è stato?» «L'hanno ferito al petto, sulle mura». «Sulle mura?» «Sì, ha voluto andarci lui, ha voluto andare a morire». «E perché?» Io domandai mentre cominciavo a salire le scale, ma nemmeno mi accorgevo di salirle, nemmeno aspettavo la risposta. «E chi lo sa perché? Tutto in una volta non ha voluto più vivere». Il capitano Zurlo e il canonico De Pasca stavano ritti ai piedi del letto mentre Don Felice, ansimante, si sforzava di parlare. Aveva gli occhi spalancati che fissava ora su uno ora sull'altro, come se cercasse di parlare con gli occhi. Infine balbettò: «David dice...» «Non vi affaticate, amico mio», rispose il capitano Zurlo. «Dio vi è vicino lo stesso». Lui sospirò 2 o 3 volte e sollevò la testa. «Transibo in locum tabernaculi admirabilis». Si abbandonò sul cuscino. «Me ne vado», disse. Allora io mi accostai e lui mi vide. Mi guardò per un poco in silenzio, muovendo una mano sul letto, stringendo nel pugno il lenzuolo. Solo dopo qualche minuto sussurrò: «Idrusa». «Don Felice», io dissi. Ci guardammo ancora in silenzio, mentre il capitano Zurlo aveva chiamato in un angolo della stanza il canonico e parlava con lui. «Hai visto?» disse Don Felice e da capo si abbandonò. Si capiva che voleva dire qualche cosa, ma gli mancava la voce. Si udì nella stanza il suo respiro, che usciva grosso a intervalli, simile a un rantolo. Alla fine si toccò la fronte con un dito 2 o 3 volte e fece sì con la testa. Raccogliendo tutte le forze, disse: «Le piccola la nostra testa. Tacque un momento, mandò fuori un lungo respiro e disse: è troppo piccola per sapere quello che succede nell'aldilà, ma io ti dico. Da capo la voce gli veniva meno. Ti dico che se appena potrò ti starò sempre vicino. Il canonico nell'angolo scosse la testa. Don Felice chiuse gli occhi mentre io facevo uno sforzo per baciargli la mano bagnata di sudore freddo. In quell'istante si udì uno scoppio di spingarde al quale Don Felice riaprì gli occhi, ma parole non ne disse più. «Battono di spingarde i maledetti!» esclamò il capitano Zurlo uscendo dalla stanza. Il canonico, occupato nel suo compito, prese un libretto e ne voltò le pagine finché trovò quella giusta. Allora si sedette e cominciò a recitare a mezza voce la preghiera degli agonizzanti. Don Felice, occhi chiusi, rantolava. «Sta morendo», pensai. Poi pensai: «Perché l'anima non se ne va tutta in una volta? Che fa con quel tira e molla per ore?» Il capitano Zurlo rientrò e, dopo aver fissato dai piedi del letto Don Felice, disse: «Era un gran bravo uomo». Infine si volse a me: «Tu te ne puoi andare, puoi tornare alla cattedrale». Guardai un'ultima volta Don Felice. S'era fatto in pochi momenti bianco e incavato, ma subito io lo rividi seduto al suo tavolo a Palazzo De Marco, che alzava la testa bianca dalle carte e mi domandava stupito: «E tu chi sei?» Io udivo la voce d'allora di fianco al rantolo d'adesso, poi tutti e due sparivano inghiottiti dalle litanie degli agonizzanti che il canonico e Teodoro recitavano ai piedi del letto. E lo rividi un'altra volta al balcone del Palazzo De Raho, mentre suonavano le campane dei Santi 40 e lui, fissando gli occhi color miele nei miei, diceva che voleva costruire un castello di luce e lo sagomava con le braccia felice. Da capo la sua voce lontana fu inghiottita dalle litanie degli agonizzanti ed io non lo sopportai più. Passo a passo, andando indietro, uscii dalla stanza per non sentire quella spaventosa nenia della morte e mi trovai nella via. Vedevo le porte dei palazzi, la svolta del vicolo di Santa Rosa, la piazza della cattedrale, frate Leone che parlava sul sacrato con un ometto baffuto e grasso, ma tutto questo lo vedevo come in una vita sognata, lontana, e camminando per la via giusta mi pareva di seguire un vecchissimo ricordo di una strada fatta tanti anni prima. Mia sorella era in piedi, ansiosa, dietro la porta di Levante. «Che è stato?» «Muore Don Felice. Un flusso di sangue. Ma che flusso? Combatteva sulle mura e l'hanno colpito». «Sulle mura? Con quegli anni e quella grassa? E che era ammattito del tutto?» «Vuoi tacere?» dissi. «Quello ti ha rovinata la reputazione, ora devo pure tacere». Nel silenzio della chiesa io non so come scoppiai in un grido e in una risata. «Sicuro!» urlai. «È giusto il momento di pensare alla reputazione». Mia sorella mi guardò impaurita e si allontanò in silenzio. Alfio e i piccini della sua età, dopo essere saliti e scesi in continuazione di giorno dalle panche della chiesa, stanchi si addormentavano. La notte c'erano quattro lucerne accese che davano in sussulti per le correnti d'aria e trasformavano le figurine dei santi dipinte alle pareti in tanti fantasmi barbuti, con mantelletti, bastoni e corone che si stiravano lungo i muri. Ogni tanto un piccino piangeva nel sonno. «Adesso io me ne esco», pensai. E nel pensare questo già camminavo lungo le cappelle dove le donne dormivano distese sui sacchi e mi avviavo alla porta grande. Frate Leone da Faggiano dormiva come sempre. Già un'altra volta era uscita di notte e lui non s'era accorto. Mi trovai nella piazza da dove vedevo partirsi tre strade coi più bei palazzi di Otranto. C'era silenzio. Avvolta nello scialle scesi per il vicolo del Crismatico, ma d'un tratto mi fermai. Avevo paura di incontrare qualcuno. L'altra volta avevo incontrato Colangelo proprio in quel vicolo. Era ammattito Colangelo, voglio dire, non sapeva più quello che faceva, se no si sarebbe messo a baciarmi in quel modo. «Sono un porco», aveva gridato alla fine, se n'era andato chissà dove. Tornai indietro a buoni conti e mi sedetti nella piazza della cattedrale, subito fuori della porta. Nuvole basse si trascinavano nel cielo, si aprivano, si richiudevano, si sfittivano, sicché ogni tanto, dietro, passava frettolosa qualche stella e subito scompariva. D'un tratto venne fuori una luna di gesso. Mi fece paura. Pensai che no, non c'era più niente da fare per noi. Si vedeva lontano un miglio che era finita. Ma non era questo, era altro che mi metteva meraviglia. Ecco, io, Antonio, Manuel, le sedie della mia casa, il mio cortile, il secchio della cisterna, eravamo tutti in una rete. C'era anche Don Felice che camminava con la pancia in fuori sui tappeti della sala. C'erano i candelabri del palazzo, c'era tutto. Ma bastava prendere un capo del filo, tirarlo, ed ecco che scivolavamo ciascuno per conto suo in un grande mare. Era così, dunque. A uno non restava niente. Passarono 3 soldati napoletani con passo stanco, in silenzio. «Come vanno le cose sulle mura?» domandai. «Male d'accidente», rise uno. 2 o 3 giorni», disse un altro, «e non ci restano che le brache». Quando entrai, frate Leone s'era svegliato. «Ma tu», disse stupito, «com'è che sei fuori della porta?» «Sono uscita mentre dormivate, avevo caldo». «Mentre dormivo? Ho dormito io? Gesù, sono tanto stanco che non mi accorgo se sono sveglio o se dormo. Corri, corri dentro, figlia». Le donne cominciavano a svegliarsi e a camminare, parlottando da una cappella all'altra con i figli in braccio. Sbucai nella sacrestia. Padre Procomio e padre Epifani distribuivano dentro le quartare il poco latte di capra che ancora si trovava per darlo ai piccini. «Brava, sei arrivata a tempo», disse padre Epifani. «Ma dov'eri?» «Fuori», risposi. «Sei andata in giro per le strade?» «Un po'. Hai notizie dalle mura?» «Sì, fresche fresche, presto creperemo tutti», risposi. Lui continuò a versare latte. Me ne passò una scodella. «Bevi», disse. «Bevi un po' di latte, fammi questo piacere». Era ancora tiepido delle mammelle di capra e ci provai gusto a berlo. 3 giorni dopo, il 12 agosto, giorno di venerdì, si sentì un tale fracasso che pareva dovessero cadere i muri maestri della cattedrale. Le navate si riempirono di odore di fumo. Poi venne correndo Antonio De Raho. Gridò: «Sbarrate le porte, arrivano i turchi!» Tutto fu un subbuglio mentre i monaci basiliani sbarravano le porte con spranghe di ferro. Allora poco tempo passò e vedemmo il vecchio arcivescovo entrare nella navata grande con le vesti pontificali, sedersi sul trono a sinistra dell'altare maggiore. Quando i turchi sfondarono la porta grande e invasero la chiesa, lui sedeva là, immobile, coi paramenti d'oro lungo e sottile, la mitra in capo di seta bianca vergata d'oro e una grande croce davanti a sé, stretta nelle due mani. I turchi avanzarono in massa, correndo e urlando fino alla gradinata dell'altare maggiore, ma qui si fermarono di botto. Avevano visto l'arcivescovo e continuavano a guardarlo, stupefatti, scrollando in capo i pennacchioni delle zarcole. Forse non potevano credere che fosse un uomo vero a stare lì, seduto con vesti di porpora e guardare in su. Lui ancora per un attimo non si mosse. I suoi occhi fissarono ancora per un attimo la croce d'oro. Poi si alzò, lentamente, in piedi, gli occhi dalla croce girarono alle facce dei turchi, le guardarono a una. Infine, tesa nell'aria una mano stecchita, con il suo filo di voce gridò: «Miseri infelici che siete caduti nelle tenebre!» I turchi sgranarono gli occhi, impiegarono un momento a riprendersi. Appena si ripresero lo pugnalarono e cominciarono a urlare. Noi guardavamo impietrite l'arcivescovo pugnalato e fu così che vedemmo un turco strappargli la mitra, ficcarsela in capo e andare per la navata scrollando la testa come un burattino. «State unite, state ferme», ripetevano i frati, «non gridate!» «Eh sì, state ferme, ma quando io vidi un turco strappare Alfio dalle braccia di Assunta e sentii il piccino urlare dalla paura, ne ebbi abbastanza e saltai addosso infuriata a quell'uomo strappandogli Alfio dalle braccia». «Idrusa, figlia!» gridò padre Epifani. 3 o 4 turchi mi furono sopra, saltando sui calcagni, mentre io stringevo al petto Alfio, zittito dal terrore. Me lo strapparono alla fine e un dell'lì mi venne addosso col pugnale in mano. Vidi sotto le ali della zarcola 2 occhi che mi guardavano con forza straordinaria e io pure lo guardai, ferma. Tardò col pugnale in aria finché la sua faccia infuriata si aprì in una smorfia che pareva un singhiozzo di gioia. Mise il pugnale nel fodero. «Bella, bella!» grugnì nella nostra lingua afferrandomi le spalle. Sentii le sue mani sul collo e barcollai. ma poi fui più svelta di una gatta e coprendogli gli occhi con una mano presi con l'altra il suo pugnale me lo ficcai nel petto. Scivolata sul pavimento vidi per un attimo sopra di me gli occhi del turco che mi guardavano stupefatti, pieni di interrogazione. Altri vicino scoppiarono in una risata e la faccia del turco scomparve. Vedevo un gran cielo rosso sopra la mia testa e tutti i rumori si allontanavano. Anzi, scese una grande calma sotto il peso di quel cielo rosso. Solo da molto lontano mi arrivava una voce che diceva: «Idrusa, Idrusa, che Dio ti benedica, piccina!» Doveva essere la voce di padre Epifani, così mi pareva, ma non potevo rispondere. Ero ormai lontana, così lontana da quella voce. Valentina Carnelutti ha letto L'ora di tutti di Maria Corti, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Chiara Valerio e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.